Yeah, whoa, Mr. Tony, yeah, DJ Dante, yeah, I'm out, yeah, yeah, hey. Frocio, prima o poi ti spacco il bucio. Un improvviso chirurgo e poi te lo ricucio. Se arriva mister che le dita schiocca, voglio vedere quando cacchi dalla bocca. Ocio, frocio, fammi un ciuccio, stai diffamando di me, bandana e cappuccio. Ocio, frocio, che sei l'ultimo arrivato e per di più t'hanno già inculato. Lo sai che fai schifo pure a una cacata. Ocio, frocio, su sto cazzo fa spaccata. Sai che è iodissimo, non conosci stile e sei pessimo. Tu con me, non vorrai mica fottere. Io quando faccio rap il culo faccio muovere. Ho una vasta scelta che fa imbarazzo. Sul cancello di casa c'ho scritto attenti al caso. Ed è normale se rubo un Buna BMW. Ti metto sotto con la mia nuova Brumbu e poi di più. Se odio la tua faccia, prima ti schiaccio e poi retromarcia. Ed è normale se rubo una BMW. Ti metto sotto con la mia nuova Brumbu e poi di più. Se odio la tua faccia, prima ti schiaccio e poi retromarcia. Cronici, fobici, tu affogaci, provaci più. Codici, logici, voi modici, modici su. 12 pollici, vedo monaci erotici. Tu scovaci, portici, poi suonaci, suonaci, ehi. Tubi catodici trasmettono le immagini di pecore nel gregge, fuori legge nelle indagini. Qua viviamo ai margini di mondi paralleli. C'ho sistemi nei miei schemi, aumentano i problemi. Nuovi temi, nuovi sensi, nella quarta dimensione. Più dissensi, cosa pensi? È dinamite dal mautone. Già, è un'esplosione giù per tutte le persone. Vivo un'altra situazione, porto il fuoco sul mio nome. Poi teste in azione, evoluzione dalle bose. Solo scatti, nuove pose di voi rapper tra le rose. Noi nuove cose, pronti per il grande salto. Denti stretti sull'asfalto, fuori per lo street. Ed è normale se rubo una BMW. Ti metto sotto con la mia nuova BMW e poi di più. Se odio la tua faccia, prima ti schiaccio e poi retromarcia. Ed è normale se rubo una BMW. Ti metto sotto con la mia nuova BMW e poi di più. Se odio la tua faccia, prima ti schiaccio e poi retromarcia.